Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City, città e sviluppo sostenibile. Questa sera a Smart City cercheremo di mettere a fuoco quanto emerge dalle anticipazioni del rapporto ICT Rate, l'ormai tradizionale graduatoria delle Smart Cities italiane, curata da Forum PA, che quest'anno include un'analisi sul posizionamento dei comuni capoluogo rispetto agli obiettivi della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. Parliamo di ambiente, ma anche di trasporti, di istruzione, di sicurezza urbana, e ne parliamo con Gianni Dominici, che è direttore generale di Forum PA, manifestazione che tra l'altro si svolgerà tra poco a Roma dal 23 al 25 maggio, una specie di kermesse appunto sulla pubblica amministrazione. Buonasera Dominici. Buonasera a tutti. Allora, intanto come avete definito questa sostenibilità? Che cosa vi siete rifatti? Non ve la siete inventata voi una definizione di sostenibilità? Beh, no, assolutamente no. Ma noi siamo partiti da un dato di fatto che è condiviso dall'ONU, dall'Organizzazione per le Nazioni Unite, e cioè che in questo momento ci troviamo di fronte a un problema di modelli di sviluppo. In crisi sono i modelli che abbiamo utilizzato fino ad oggi. Quindi cosa ha fatto l'ONU? Ha creato questa agenda, un'agenda globale per lo sviluppo sostenibile, che ha condiviso con gran parte dei governi occidentali, individuando 17 obiettivi target. I 17 obiettivi vanno da quelli globali, da sconfiggere la povertà, all'obiettivo 7, che è energia pulita e accessibile, oppure città e comunità sostenibili. Quindi... Poi diciamo, uno dei problemi in questi casi è proprio cercare di misurare, no? Come cambiano questi parametri, diciamo così, proprio per capire anche se si stanno facendo le cose giuste oppure le cose sbagliate. E a questo servono anche le ricerche come quella che coordinate voi. E vediamo qualche risultato, qualche numero che viene fuori. Intanto una notizia purtroppo negativa è che in tutta Italia, in modo abbastanza generalizzato un po' in tutti i capoluoghi, diminuiscono i cosiddetti posti per chilometro nel trasporto pubblico locale. Quindi un trend intanto negativo da questo punto di vista. Sì, questo purtroppo è uno dei problemi in questo momento. Cioè, da una parte cresce la domanda di trasporto pubblico locale, dall'altra invece c'è un problema di riduzione dell'offerta. Appunto, da 4.787 posti chilometro per abitante siamo scesi a 4.004, insomma, si va da delle punte che arrivano a 5.700 posti a invece altri che arrivano addirittura a 2.100 posti. L'altro problema che riguarda il trasporto pubblico è la riduzione degli investimenti. Da una parte cresce la spesa corrente, cioè cresce la spesa per gestire i servizi pubblici, e cresce anche di tanto, da 97 a 137 euro pro capite. Ma dall'altra però stanno diminuendo gli investimenti. Certo. Da 68 a 49. Insomma, stiamo continuando a mettere fil di ferro intorno a degli oggetti che stanno cadendo a pezzi, quindi rischia di risultare anche molto costoso, oltre che stupido. E qui c'è anche il problema dei modelli. È evidente, certo, che dobbiamo immaginarci anche un nuovo modo di intendere la mobilità sostenibile nelle città. Non a caso da altre città europee, in alcune città del nord nostro, si sta sviluppando sempre più la mobilità, ad esempio quella basata sulla ciclabilità, sulle biciclette. Certo, ecco, da questo punto di vista, proprio parlando di biciclette, ecco, la disponibilità di bike sharing è uno dei tanti, diciamo, record che ha consentito a Milano, nonostante i ben noti problemi per esempio legati alla qualità dell'aria, che è seriamente compromessa a causa delle polveri sottili, ecco, ha portato Milano realisticamente a vincere questa graduatoria, anche se non c'è ancora una graduatoria ufficiale. Ecco, che cos'è che ha portato in testa Milano anche in questa classifica della sostenibilità? Ricordiamo che da 3 anni è prima neanche nella vostra classifica generale. Cosa è successo? Beh, che Milano sta facendo esattamente quello che ci chiedono a livello globale, cioè mettere in discussione i modelli di intervento. Tanto per fare degli esempi, è la città che conferma maggiore intensità di brevetti, e questo fa parte della tradizione, ma anche la città che ha il maggior numero di co-working, cioè di realtà che in grado di ospitare. Lì il numero è impressionante. Più del 70% dei co-working nazionali sono concentrati a Milano. Esattamente. Così come come c'è un'ottima percentuale incidenza di Fab Lab, che sono, no, le nuove forme di produzione legate alle 3D, eccetera, eccetera. Poi record anche del car sharing, insomma, proprio tutte queste forme di economia condivisa. Ecco, per non fare solo elogi, che vanno male la qualità dell'aria a Milano, male il verde pubblico e incredibile l'informatizzazione scolastica, una delle città con meno wifi nelle scuole. Alcuni invece dei dati che emergono dalla vostra ricerca sono sorprendenti a prima vista, ma in realtà sono piuttosto prevedibili, nel senso che hanno una spiegazione sociologica tutto sommato semplice. Uno di questi riguarda proprio la stessa Milano, dove c'è il record nazionale di microcriminalità, apparentemente. Sì, questo, come chiamiamo noi tecnici, diciamo, è un indicatore multidimensionale, significa diverse cose. Uno, sicuramente in negativo, che comunque laddove c'è concentrazione urbana c'è anche maggiore criminalità. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. L'altro, invece, di segno opposto, è che laddove c'è emancipazione c'è anche, diciamo così, maggiore coraggio, determinazione nel denunciare fatti criminali anche di minore importanza. Quindi è anche un indicatore di maturità complessiva dal punto di vista così, sociale e antropologico. Grazie Gianni Dominici. Grazie a voi, a presto. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.